Vediamo il parco del DLF, insomma, l'abbiamo sempre frequentato come normali frequentatori dei luoghi della vita notturna, culturale, anche diurna della città, e però abbiamo captato negli ultimi mesi dei segnali e delle segnalazioni di persone che frequentano il parco con più assiduità di noi e ci hanno segnalato di qualcosa di strano che negli anni è capitato al parco del DLF. Quindi quello che noi abbiamo fatto è questa videoinchiesta che racconta i livelli che ci sono in questa zona frequentatissima di Bologna, partendo appunto dal livello più superficiale, possiamo dire, ma non per questo meno importante, quello appunto dei lavori che saranno finanziati da 11 milioni del PNRR, che dovrebbero riqualificare la zona, e poi però altri livelli, livelli di incendi avvenuti 4 anni fa all'Arena Puccini, incendi che si sono susseguiti nel tempo e che avevano fatto dichiarare all'epoca al presidente del quartiere Navile Ara di un clima intimidatorio nei confronti del comune che l'anno prossimo prenderà in gestione il parco. E vediamo ulteriori segnali di persone che notano un soggetto, in particolare il titolare di Pizza Artist e dei campi da beach volley, che ha anche una partecipazione nella società che gestisce i campi da calcetto, come dire, strani, strani per Bologna, che hanno creato un clima di inquietudine e che hanno segnalato qualche anno fa la volontà di questo soggetto di prendere più posti possibili all'interno del parco, con mire sicuramente espansionistiche e di mancata collaborazione nei confronti del comune e delle istituzioni pubbliche. Il racconto però prosegue segnalando un fatto che è emerso dalle carte di un'indagine chiamata Reticolo contro l'Andrangheta in Appennino e mostriamo e raccontiamo come qualche anno fa c'è stato un pestaggio da parte di questo soggetto, su cui appunto è in pendenza il rinvio a giudizio, proprio al parco del DLF, un pestaggio con l'aggravante mafiosa che appunto sarebbe stato organizzato per un regolamento di conti interno a soggetti che sembrano essere molto vicini all'Andrangheta. Ecco, questo fatto per noi è davvero molto importante che emerga, che diventi un fatto conosciuto in città con cui fare i conti, perché spesso appunto le mafie sono nascoste, non si vedono, ma a volte dei segnali ci sono e per coglierli bisogna essere preparati e riuscire a vederli. Questo è il clima che con l'arrivo poi di ingenti risorse, dicevamo 11 milioni di euro, potrebbe creare ulteriori appetiti? Sì, esatto, noi vediamo un rischio enorme sul PNRR perché per come si sta configurando il PNRR può essere una autostrada per le organizzazioni criminali e mafiose di accaparrarsi questa enorme quantità di denaro che sono da spendere in solo 3 anni. Parliamo di 1 miliardo di euro sulla città metropolitana di Bologna e vediamo una situazione che parte dal livello nazionale, che per noi è molto preoccupante, con il governo che approva una fortissima deregolamentazione degli appalti dei lavori pubblici e prosegue col fatto che il PNRR prevede fondi per i progetti ma non prevede fondi per funzionari, per impiegati comunali e nelle amministrazioni locali per poi realizzarli e mettere a terra questi progetti. Quindi semplificazione, poco personale, in certi territori e soprattutto dell'area metropolitana di Bologna ma anche nella nostra stessa città, poca conoscenza di come sono le mafie oggi, del fatto che sono presenti in città e nell'area metropolitana e è chiaro che questo rischia davvero di essere una enorme occasione per le mafie. È per questo che come associazione noi stiamo alzando l'allarme, chiediamo di parlare di questo tema, di parlare anche dei problemi che ci sono sul PNRR, perché solo avendo consapevolezza dei problemi che ci sono si può creare la coscienza per contrastarli e risolverli. Quindi noi stiamo chiedendo di aprire un dibattito pubblico che coinvolga però tutti, dalle forze dell'ordine alle istituzioni fino alla cittadinanza, affinché si sappia che c'è questo enorme rischio e ci si chieda insieme come comunità come poterlo affrontare e risolvere. Proprio le istituzioni che citavi, come hanno reagito fino a questo momento al vostro allarme? C'è un po' di sottovalutazione? Non lo so, di certo, insomma, noi abbiamo avuto una risposta da parte delle istituzioni, in particolare dell'Appennino, il presidente dell'Unione dei Comuni in Appennino, che ha risposto al nostro allarme appunto sui fondi del PNRR in quella zona dell'area metropolitana di Bologna, in cui appunto ha rassicurato dicendo che comunque le convenzioni con la Guardia di Finanza sono state fatte, che c'è una cabina di regia e quindi appunto sicuramente c'è da un lato una volontà di rassicurazione, dall'altro un'apertura all'aiuto nei nostri confronti se abbiamo proposte. Ecco, noi sicuramente importante, ma ci siamo ad aiutare e lo facciamo già da anni, direi da quando Libera è nata. Quello che sottolineiamo però appunto è il tema del dibattito pubblico, che finché appunto non si parla e non si dice che questo problema c'è, esiste in città, perché noi raccontiamo da anni dei casi di mafia presenti in città, che anche se non sono state, come dire, nelle prime pagine dei giornali, però sono ben presenti. Ecco, se quindi non si fa questa grande operazione di discussione con la città di questi problemi, a maggior ragione in questo periodo in cui arriveranno così tanti soldi, il rischio è che poi anche le cabine di regia, anche le convenzioni con Guardia di Finanza, poi non riescano a contrastare davvero ed efficacemente a fondo quello che sono le mafie oggi, che sono spesso appunto nascoste, economiche, pervasive, e che spesso si presentano in modo da risolvere i problemi e non da crearli. Sono quelli che arrivano e prendono i lavori perché riescono a realizzarli in un momento in cui realizzare i lavori è davvero difficilissimo per tutte le aziende, a partire dall'aumento dei costi delle materie prime.